Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. La pioggia continuava a cadere con estrema violenza e sul mare l'uragano infuriava sempre tremendamente. Attraverso gli alberi i due pirati scorgevano le onde accavallarsi rabbiosamente e scagliarsi contro la spiaggia con impeto irresistibile, frangendosi e rifrangendosi. Scorgendo quelle ondate che, invece di scemare sempre più ingigantivano, Yanez non poté trattenersi dal chiedere: «Cosa accadrà dei nostri praos con simile tempesta? Credi tu, Sandokan, che si salveranno? Se dovessero naufragare, cosa succederebbe di noi?» «I nostri uomini sono valenti marinai», rispose Sandokan, «essi sapranno trarsi d'impiccio. E se naufragassero, cosa potresti fare tu senza il loro aiuto? Cosa farei? Rapirei ugualmente alla fanciulla». «Tu corri troppo, Sandokan. Due soli uomini, siano pure due tigri della selvaggia Mompracem, non possono affrontare 20, 30 o forse 50 moschetti. Ricorreremo all'astuzia». «Mi crederesti capace di rinunciare al mio progetto?» «No, Yanez, io non tornerò a Mompracem senza Marianna». Yanez non rispose, accese una sigaretta e si sdraiò in mezzo all'erba che era quasi asciutta essendo protetta dalle larghe foglie dell'albero, chiudendo gli occhi. Sandokan invece s'alzò spingendosi verso la spiaggia. Il portoghese, che non dormiva, lo vide aggirarsi sul margine della foresta, ora salendo verso il nord e ora riscendendo verso il sud. Certamente cercava di orientarsi e di riconoscere quella costa che forse aveva già percorsa durante il suo soggiorno in quell'isola. Quando ritornò cominciava ad albeggiare, la pioggia da qualche ora era cessata ed anche il vento non ruggiva più così forte attraverso i mille alberi della foresta. «So dove ci troviamo», disse a Yanez. «Ah», fece questi, preparandosi ad alzarsi, «il fiumicello deve trovarsi verso il sud e forse non è lontano. Vuoi che andiamo a cercarlo?» «Sì, Yanez. Spero che non ardirai avvicinarti alla villa di giorno, ma questa sera nessuno mi tratterrà». Poi aggiunse con l'intonazione di una persona che voglia esprimere l'eternità: 12 ore ancora, quale tortura!» «Nella foresta il tempo passa presto, Sandokan», rispose Yanez sorridendo. «Andiamo, sono pronto a seguirti». Si gettarono in spalla le carabine, si cacciarono nelle tasche le munizioni e si internarono nella grande foresta, cercando però di non allontanarsi troppo dalla spiaggia. «Eviteremo le profonde insenature che descrive la costa», disse Sandokan. «La via sarà forse meno facile, ma più breve. Badiamo a non smarrirci. Non temere, Yanez». La foresta non presentava che rari passaggi, ma Sandokan era un vero uomo dei boschi che sapeva strisciare come un serpente e dirigersi anche senza stelle e senza sole. Si diresse verso il sud, tenendosi a breve distanza dalla costa, onde cercare prima di tutto il fiumicello entro cui era si cacciato nella precedente spedizione. Giunto là non era difficile raggiungere la villa che il pirata sapeva essere lontana forse un paio di chilometri. La via però, di mano in mano che procedevano verso il sud, diventava più difficile in causa della strage fatta dall'uragano. Numerosi alberi abbattuti dal vento sbarravano i passaggi, costringendo i due pirati a fare ardite ascensioni e lunghi giri. Poi erano ammassi immensi di rami che imbarazzavano la loro via e immense quantità di liane che si allacciavano alle loro gambe, ritardando il loro cammino. Tuttavia, lavorando coi Chris, salendo e scendendo, saltando e scalando alberi e tronchi atterrati, tiravano innanzi, cercando sempre di non allontanarsi troppo dalla costa. Verso il mezzodì Sandokan si arrestò, dicendo al portoghese: siamo vicini. Al fiume o dalla villa? Al corso d'acqua, rispose Sandokan. Non odi questo gorgoglio che si ripercuote sotto queste fitte volte di verzura? Sì, disse Yanez dopo di aver ascoltato qualche istante, che sia proprio il fiumicello che noi cerchiamo. E non posso ingannarmi, io ho percorso questi luoghi. Andiamo innanzi. Attraversarono lestamente l'ultimo lembo della grande foresta e 10 minuti dopo si trovarono dinanzi ad un piccolo corso d'acqua, il quale sboccava in una baia graziosa cinta ad alberi immensi. Il caso li aveva condotti in quel medesimo luogo dove avevano approdato i Prahos della prima spedizione. Vi si vedevano ancora le travi lasciatevi dal secondo, quando, respinto dalle tremende cannonate dell'incrociatore, era Sicolà rifugiato per riparare le sue gravi avarie. Sulla riva v'erano pezzi di pennoni, frammenti di murate, lembi di tela, cordami, delle palle da cannone, delle scimitarre e delle scure infrante e dei rimasugli di attrezzi. Sandokan gettò un cupo sguardo su quegli avanzi che gli rammentavano la sua prima sconfitta e sospirò pensando a quei prodi che erano stati distrutti dal fuoco implacabile dell'incrociatore. «Riposano laggiù, fuori dalla baia, in fondo al mare», disse a Yanez con voce triste. «Poveri morti, ancora invendicati. È qui che tu sei approdato?» «Sì, qui, Yanez. Allora ero l'invincibile tigre della Malesia. Allora non avevo catene attorno al cuore, né visioni dinanzi agli occhi. Mi sono battuto come un disperato, trascinando i miei uomini all'abbordaggio con furore selvaggio, ma mi hanno schiacciato. Il maledetto che ci copriva di ferro e di piombo era là. Mi pare ancora di vederlo, come in quella tremenda notte che io l'ho assalito alla testa di pochi prodi. Che momento terribile, Yanez, quale strage. Tutti sono caduti, tutti meno uno. Io. Rimpiangi quella sconfitta, Sandokan? E non lo so. Senza quella palla che mi colpì, forse non avrei conosciuto la fanciulla dai capelli d'oro. Tacque e discese verso la spiaggia, spingendo gli sguardi sotto le azzurre acque della baia. Poi s'arrestò con le braccia tese, additando a Yanez il luogo ove era avvenuto il tremendo abbordaggio. I Prahos riposano laggiù, disse. Chissà quando mi portano ancora nei loro scafi. Si sedette sul tronco di un albero caduto, forse per decrepitezza, si prese il capo fra le mani e si immerse in profondi pensieri. Yanez lo lasciò assorto nelle sue meditazioni e s'avventurò fra le scogliere, frugando con un bastone acuminato nei crepacci per vedere se riusciva a scoprire qualche ostrica gigante. Dopo aver girovagato per un quarto d'ora, tornò alla spiaggia, portandone una così grossa che era imbarazzato ad alzarla. Accendere un bel fuoco ed aprirla fu per lui l'affare di pochi istanti. Orsù, fratellino mio, lascia i Prahos sott'acqua ed i morti in bocca ai pesci e vieni a dare un colpo di dente a questa polpa squisita. Già, anche pensando e ripensando, non fai venire a galla né gli uni né gli altri. È vero, Yanez, rispose Sandokan sospirando. Quei prodi non ritorneranno in vita più mai. La colazione fu squisita. Quell'ostrica gigantesca conteneva una polpa così tenera e così delicata da far andare in solluchero quell'ottimo portoghese a cui l'aria marina unita ai profumi della foresta avevano aguzzato straordinariamente l'appetito. Terminato quel pasto abbondantissimo, Yanez si preparava a sdraiarsi sotto un superbo durion che torreggiava sulla riva del fiume per fumarsi beatamente un paio di sigarette, ma Sandokan con un gesto gli indicò la foresta. «La villa è forse lontana», gli disse. «Non sai precisamente dove si trova. Vagamente, avendo percorso questi luoghi in preda al delirio. Diavolo. Ah, non temere, Yanez. Io saprò trovare il sentiero che conduce al parco. Andiamo, già che lo vuoi. Bada però di non commettere imprudenze. Sarò calmo, Yanez. Una parola ancora, fratellino. Cosa vuoi? Spero che attenderai la notte per entrare nel parco. Sì, Yanez, me lo prometti? Hai la mia parola. Allora in marcia. Seguirono per qualche tratto la riva destra del fiumicello, poi si gettarono risolutamente nella grande foresta. Pareva che l'uragano avesse infuriato tremendamente in quella parte dell'isola. Numerosi alberi abbattuti o dal vento o dalle folgori giacevano al suolo. Alcuni si trovavano ancora semisospesi, essendo stati trattenuti dalle liane, ed altri interamente coricati. Dappertutto poi cespugli lacerati e contorti, ammassi di fogliame e di frutta, rami spezzati, in mezzo ai quali urlavano parecchie scimmie rimaste ferite. Malgrado quei numerosi ostacoli, Sandokan non si arrestava, continuò a marciare fino al tramonto, senza mai esitare sulla via da prendere. Calava la sera e già Sandokan disperava di trovare il fiumicello quando si trovò improvvisamente dinanzi ad un largo sentiero. «Cos'hai veduto?» chiese il portoghese, vedendolo fermarsi. «Siamo presso la villa», rispose Sandokan con voce soffocata. «Questo sentiero conduce al parco». «Perbacco, che bella fortuna, fratellino mio, tira innanzi, ma bada di non commettere pazzie». Sandokan non aspettò che terminasse la frase. Armata la carabina, onde non venire sorpreso disarmato, si slanciò sul sentiero con una tratta di piccata. Il portoghese penava a stargli vicino. «Marianna, fanciulla divina, amor mio!» esclamava, divorando la via con crescente rapidità. «Non aver più paura, che ora ti sono vicino!» In quel momento il formidabile pirata avrebbe rovesciato un reggimento intero pur di giungere alla villa. Non aveva paura più di nessuno, la morte stessa non lo avrebbe fatto retrocedere. Anelava, si sentiva invaso da un fuoco intenso che ardevagli nel cuore e nel cervello, agitato da mille timori. Temeva di giungere troppo tardi, di non ritrovare più la donna così immensamente amata, e correva sempre più, dimenticando ogni prudenza, fracassando e schiantando i rami dei cespugli, lacerando impetuosamente le liane, saltando con slanci da leone i mille ostacoli che gli sbarravano la via. «Ehi, Sandokan, pazzo indemoniato!» diceva Yanez, che trottava come un cavallo. «Aspetta un po' che ti raggiunga, fermati per mille spingarde o mi farai scoppiare. Alla villa!» rispondeva invariabilmente il pirata. Non si arrestò che dinanzi alle palizzate del parco, più per aspettare il compagno che per prudenza o stanchezza. Esclamò il portoghese, raggiungendolo. «Credi che io sia un cavallo per farmi correre così? La villa non scappa, te l'assicuro io. E poi, tu non sai che chi può lasciarsi dietro a quella cinta?» «Non ho paura degli inglesi», rispose la tigre, che era in preda ad una viva esaltazione. «Lo so! Ma se tu ti fai ammazzare, non vedrai più la tua Marianna. Ma io non posso rimanere qui, bisogna che io veda la Lady. Calma, fratellino mio, ubbidiscimi e vedrai che qualche cosa potrai vedere». Gli fece cenno di stare zitto e si arrampicò sulla cinta con l'agilità d'un gatto, guardando attentamente nel parco. «Mi pare che non ci sia alcuna sentinella», disse. «Entriamo dunque». Si lasciò cadere dall'altro lato, mentre Sandokan faceva altrettanto, e tutti e due si inoltrarono silenziosamente nel parco, tenendosi nascosto dietro ai cespugli e alle aiuole, e con gli occhi fissi sulla palazzina che si scorgeva confusamente fra le tenebre. Erano così giunti ad un tiro d'archibugio quando Sandokan si arrestò di botto, spingendo innanzi a sé la carabina. «Fermati, Yanez!» mormorò. «Cosa hai veduto?» «Degli uomini sono fermi dinanzi alla palazzina. Che sia il Lord con Marianna». Sandokan, a cui batteva furiosamente il cuore, si alzò lentamente e aguzzò gli occhi guardando quelle figure umane con profonda attenzione. «Maledizione», mormorò, digrignando i denti. «Dei soldati». «Oh, la matassa si imbroglia», brontolò il portoghese. «Se vi sono dei soldati, è segno che Marianna si trova ancora nella villa. Parrebbe anche a me. Attacchiamoli dunque. Sei pazzo! Vuoi farti fucilare? Noi siamo due, loro sono forse in 10, quindi forse anche in 30. Ma bisogna che io la veda, esclamò Sandokan guardando il portoghese con due occhi che parevano quelli d'un pazzo. Calmati, fratellino mio, disse Yanez, afferrandolo strettamente per un braccio onde impedirgli di commettere qualche pazzia. Calmati e forse la vedrai. E in quale modo? Aspettiamo che faccia tardi. E poi? Ho il mio progetto. Sdraiati qui vicino, frena gli impeti del cuore e non avrai da pentirti. Ma i soldati? Per Giove! Spero che andranno a dormire. Hai ragione, Yanez. Aspetterò. Si coricarono dietro un folto cespuglio, ma in modo da non perdere di vista i soldati e attesero il momento opportuno per agire. Passarono due, tre, quattro ore, lunghe per Sandokan come quattro secoli. Poi, finalmente, i soldati rientrarono nella villa chiudendo fragorosamente la porta. La tigre fece atto di slanciarsi innanzi, ma il portoghese lo trattenne rapidamente, poi trascinandolo sotto la fitta ombra d'un grandissimo pombo, gli disse, incrociando le braccia e guardandolo fisso, «Dimmi, Sandokan, cosa speri di fare, tu, questa notte?» «Vederla. E credi che sia cosa facile? Hai trovato il modo di poterla vedere, innanzitutto?» «No, ma sa la tua fanciulla che tu sei qui. Non è possibile». Bisognerebbe quindi chiamarla. Sì. Ed i soldati usciranno, poiché non si può ammettere che siano sordi, e ci prenderanno a colpi di carabina. Sandokan non rispose. Vedi bene, mio povero amico, che questa notte nulla potresti fare. Posso arrampicarmi fino alle sue finestre, disse Sandokan. E non hai veduto quel soldato imboscato presso l'angolo del padiglione? Un soldato? Sì, Sandokan, guarda, si vede brillare la canna del suo fucile. E cosa mi consigli di fare, dunque? Parla, la febbre mi divora. Sai tu quale parte del parco frequenta la tua fanciulla? Tutti i giorni si recava a ricamare nel chiosco cinese. Benissimo. Dove si trovava? È qui vicino. Conducimi colà. Cosa vuoi fare, Yanez? Bisogna avvertirla che noi siamo qui. La tigre della Malesia, quantunque provasse tutte le pene dell'inferno nell'allontanarsi da quel luogo, si cacciò in un viale laterale e condusse Yanez nel chiosco. Era quello, un grazioso padiglioncino dalle pareti traforate e dipinto a vivaci colori e sormontato da una specie di cupola di metallo dorato irta di punte e di draghi cigolanti. All'intorno si estendeva un boschetto di lilla e di grandi cespi di rose della Cina esalanti acuti profumi. Yanez e Sandokan, dopo avere armate le carabine, non essendo certi che fosse deserto, v'entrarono. Non vi era nessuno. Yanez accese uno zolfanello e vide sopra un leggerissimo tavolo lavorato, un cestello contenente dei pizzi e del filo, e presso di esso una mandola intarsiata di madreperla. «Cose sue?» chiese Yanez a Sandokan. «Sì», rispose questi con un accento di infinita dolcezza. «È il suo luogo preferito». È qui che quella divina fanciulla viene a sperare all'aria in bambassamata di lilla in fiore, che viene a cantare le sue dolci canzoni del paese natio, ed è qui ove ella mi giurò eternamente affezione. Yanez staccò da un libricino un foglietto di carta, si frugò in una tasca e, trovato un pezzetto di matita, mentre Sandokan accendeva un altro zolfanello, scrisse le seguenti parole. «Siamo sbarcati ieri durante l'uragano. Domani sera, alla mezzanotte, saremo sotto alle vostre finestre. Procurate una fune per aiutare la scalata a Sandokan. Yanez de Gomera». «Spero che il mio nome non le sia ignoto», disse. «Oh no», rispose Sandokan, «ella sa che tu sei il mio migliore amico». Piegò la carta e la mise nella cesta da lavoro, in modo che si potesse subito vedere, mentre Sandokan, strappate alcune rose della Cina, ve le gettava sopra. I due pirati si guardarono in viso l'un l'altro alla livida luce di un lampo. L'uno era calmo, l'altro era in preda ad una grande emozione. «Andiamo, Sandokan», disse Yanez. «Ti seguo», rispose la tigre della Malesia con un sospiro represso. 5 minuti dopo varcavano le palizzate del parco, ricacciandosi in mezzo alla tenebrosa foresta.